America 24 di Mario Platero. We do have a plan, we're working on it, and I do think that we will get it stabilized and we'll see. Buongiorno da New York, Mario Platero, America 24, benvenuti al nostro programma da New York. Cominciamo da Ben Bernanke, avete sentito la sua voce, il governatore della Fed ieri ha creato un po' di maretta in borsa. Perché? Beh, ha detto che cambierà in qualche modo l'approccio alla politica monetaria, che comincerà a capire quali strumenti potrà usare per la exit strategy, per drenare liquidità dal mercato e per tornare in qualche modo a dei tassi di interessi più elevati. Una manovra indubbiamente necessaria, la liquidità era stata erogata per far fronte alla crisi finanziaria, una crisi che oggi in qualche modo sta rientrando anche se l'economia non riparte. Sono bastate queste parole di Bernanke per far tremare un po' il mercato, mercato agitato anche per le incerte risposte che abbiamo avuto dall'Europa in materia di salvataggio sulla Grecia. Cosa propone Bernanke? Intanto di affrontare la politica monetaria partendo dal tasso di sconto, che adesso è allo 0,25%, e in secondo luogo il governatore della Fed propone di applicare un nuovo tasso che aveva introdotto nel 2008, che si applicava agli eccessi di riserve. Entrambe le misure mettono in secondo piano, quantomeno, dice Bernanke, per un periodo limitato, i tassi sui fondi federali che finora hanno dominato. Una curiosità, Bernanke ieri ha fatto la sua deposizione scritta, la tempesta di neve ha chiuso il Parlamento, non ha potuto andare alla Commissione Finanza alla Camera, la città, come sapete, Washington è sommersa di neve, anche New York ha avuto scuole chiuse, aeroporti chiusi, ma oggi torna il sorriso, torna un po' di sole, gli aeroporti apriranno a mezzogiorno, le scuole sono già aperte, dunque anche quest'altra tempesta invernale è archiviata. Google torna alla carica, devo dire che la frenesia del gruppo è impressionante. In gennaio ha fatto il telefono Android intelligente, poi si scontra con la Cina, in febbraio, adesso, anzi ieri, annuncia l'attacco alle compagnie di telecomunicazione che davanti a lei, all'azienda di Mountain View in California, sembrano dei dinosauri. Cosa ci ha cucinato Google questa volta? Beh, ha annunciato la vendita di accessi internet super veloci, 100 volte più veloci di quelli attuali, per aprire una finestra nuova sul futuro della rete. Le telecom si sentono già minacciate nel loro controllo dell'accesso alla rete dal punto di vista, diciamo, delle tubature, e dimostrerà Google, attraverso questi accessi super veloci, limitati, attenzione per il momento, nuove applicazioni e nuovi utilizzi che sono oggi impensabili per internet, ad esempio composizione di immagini per la sanità, per radiografie remote oppure per operazioni via video, quindi applicazioni che vanno al di là di quello che noi oggi immaginiamo essere il normale consumo o divertimento sulla, o social networking ovviamente, sulla rete. All'inizio, vi dicevo, Google darà un servizio limitato soltanto in modo sperimentale, servirà soltanto alcune città, fra 50.000 e 500.000 persone in queste città. Saranno le città a doversi far sotto e chiedere l'accesso a questo servizio, e quindi chissà, suggeriamo a Milano, a Roma, altre città italiane che partano subito, perché deve essere questo un esperimento limitato soltanto agli Stati Uniti. I clienti compreranno il servizio direttamente da Google. Diciamo che se fossimo in Italia è come se lo comprassero la Telecom o da Fastweb, invece proprio lo compreranno direttamente da Google, e questo servizio sarà venduto a costi, dice Google, competitivi. Per la precisione, Google dice che non vuole scardinare il sistema attuale creando una rete nazionale, vuole soltanto innovare per farci avanzare ancora più in là. E questa novità ovviamente ripropone un tema di cui si è parlato molto sul nostro giornale, sul Sole 24 Ore e in America, dove Jaron Lanier, grande guru della rete internet, ha aperto un dibattito con il suo libro You Are Not a Gadget. Bene, in questo libro si domanda Lanier quanto ci domina internet, e a lui abbiamo cambiato leggermente l'angolo della domanda: quanto ci domina Google? I think what Google's doing at the moment is courageous, but that doesn't mean that Google's approach is viable in the long term. Beh, devo dire, dice Lanier, che Google ha molto coraggio, però bisogna pensare non al breve termine, ma a lungo termine. E il problema è che Google vuole di fatto dominare la rete, vuole che il passaggio della rete sia obbligatoriamente attraverso Google, e dunque in effetti possiamo immaginare che quest'ultima operazione si muove in quella direzione. Lagnier dice anche che dal punto di vista di Google l'idea è di cercare il monopolio sulla pubblicità, e poi fa un'osservazione molto interessante: lo stile di potere, il modello di potere su cui sta costruendo Google la sua strategia è molto simile a quello dei cinesi. È dunque un paradosso, perché poi da una parte Google cerca il rifiuto dei cinesi, vuole scappare, però dall'altra lo imita. E quindi c'è questa osservazione molto interessante secondo cui, dal punto di vista di Lagnier, Cina e Google sono tutti e due dei poteri assoluti. E Internet, la stessa rete, non diventa forse una forma di potere assoluto? The summary is very simply that it's designed on a belief system that... Lagnier descrive Internet un po' come una torta a molti strati, e questi strati così vanno uno sopra l'altro fino a che l'ultimo strato, quello in cui ci troviamo adesso, non prende una sua stessa forma di vita e diventa Internet, diventa vivo a sua volta. E dunque è un pericolo, potere assoluto, un Internet che in qualche modo ci sovrasta e crea dei problemi, per esempio per artisti, per giornalisti, per autori, perché a quel punto si perdono dei valori in questa Internet che tutto assorbe, tutto macina. Che cosa ha proposto dunque Lagnier? Un sistema di forma di micropagamenti garantiti e controllati dallo Stato. Gli chiediamo se questa idea che lui ha non è forse molto simile a quella di Murdoch, che dunque non si sente lui forse troppo vicino a Murdoch in questo. Non so davvero nel dettaglio quale sia la proposta di Murdoch, ci dice Lagnier nell'intervista. Di certo, sostiene, io non mi trovo in genere molto d'accordo con quello che dice Murdoch. Gli chiediamo anche se non c'è un rischio di un potere assoluto dello Stato, e lui risponde che insomma il rischio c'è sempre, però dal suo punto di vista è molto importante avere una forma di intermediazione che consenta ai singoli individui di poter partecipare e beneficiare a quello che è il valore aggiunto da un punto di vista di reddito monetario che si può derivare da Internet. Gli chiediamo alla fine se non è la sua una posizione elitista o forse troppo romantica. I don't sense myself as being elitist because I'm not suggesting any special place for myself or people like me. A romantic, I'll take that as a compliment. Ci sarebbero mille altri approfondimenti da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Li troverete su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Vi ricordo solo una piccola cosa: comincia questa settimana il Fashion Week a Bryant Park a New York. Ma arriviamo alla canzone del giorno. Il 26 giugno Eric Clapton riunirà al Toyota Park di Chicago i migliori chitarristi al mondo per il Crossroad Guitar Festival. Il grande musicista ha fatto l'annuncio ieri, i biglietti saranno in vendita prestissimo, e vi lasciamo dunque con una delle più famose canzoni di Eric Clapton, ecco per voi Laila. È tutto, Mario Pratero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.